La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la storia di un referendum, quello del divorzio. Il parroco Giovanni Tammaro di Conversano, vicino Bari, si schierò a favore del divorzio. Il vescovo si indignò e tolse subito il parroco dal suo incarico. Le donne di Conversano volevano assolutamente avere il loro parroco, tanto che il vescovo andò lì con la macchina e lo chauffeur per convincerle che non, quel parroco non era buono, non andava bene. Le donne tutte fuori dalla porta del paese l'hanno aspettato, poi hanno circondato tutta la macchina festanti e sono scomparsi tutti e tre, la macchina, il vescovo e lo chauffeur. Un messaggio al Vaticano che diceva: o ci ridai il nostro parroco o non rivedi più il tuo vescovo. Era il 71 e andai subito a chiedere: ma che cosa cantavate quando facevate queste azioni belliche? Noi, ma la nostra santa passione, la passione. E così me l'hanno fatta sentire e noi ve la cantiamo al modo delle processioni. Giovanna Marini è una musicista, una che appena sente qualcosa arrivare dalla provincia, prende il treno e va a vedere. Una volta che ha visto, scrive e mette musica. Poi a cantare la storia ci pensa il coro, il suo coro, quello che lei ha fondato con altri musicisti a Roma, al Testaccio, negli anni 70. Lei nasce da una famiglia di musicisti, sì. Si diploma in chitarra classica, sì. E poi però il suo percorso ha preso una direzione diversa, cioè ha deciso... Sì, mi è piaciuta molto la... diversa, sì, io rimango musicista e scrivo spesso, anzi parecchio, scrivo anche per teatro, per cinema, mi piace farlo e scrivo musica normale, insomma musica contemporanea come si usa a fare, però... A me piace molto la voce, mi piacciono i suoni delle voci e mi piacciono le persone che cantano. E quindi io cercavo le note, queste note strane di questi canti di tradizione orale e ho scoperto che dietro le note ci sono le persone, quindi è un mondo che mi ha affascinato e che sto ancora frequentando, studiando e insegnando. E trovo che insegnare la musica classica, anche l'armonia, il solfeggio attraverso i canti di tradizione orale non solo è possibilissimo, ma è giusto perché serve a imparare l'armonia in un modo pratico, applicato. E io lo trasmetterei questa pratica anche nei conservatori. Certamente è un po' complessa perché uno va in giro per l'Italia a cercare, però attraverso i sistemi moderni di comunicazione lo si può fare con meno gusto, devo dire, ma anche attraverso i dischi. E quindi io direi che insegnare l'armonia attraverso i canti di tradizione orale, che sono come i blues, sono forme antiche di uso della musica, ma uso serio. I pezzi di musica sono molto belli di questi canti. E andavano col treno giù nel meridione per fare la grande manifestazione il 22 ottobre del 72. Con alcuni qui balconi, con le perle per la processione, tra loro coperto di bandiere rosse, slogan, cartelli scritti a mano. Da Roma Ostiense, 1200 operai, vecchi, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere rosse. Un mondo, quello del coro, che Giovanna Marini non abbandonerà mai più. L'ultimo progetto è quello di raccontare musica montale. Sì. Parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione, tutti corrono coi megafoni, ma le richiamano, andiamo nel casino, compagni da quelle giorno. A me piace sempre, quando scrivo le cantate o qualsiasi cosa, di farla come se fosse un doppio binario, di mettere in campo due pensieri, a volte somiglianti, a volte contrastanti, e farli dialogare. Allora ho messo in campo, vicino a Montale, la tragedia greca, perché a me piace molto la tragedia greca e la storia, l'epopea greca mi appassionano da sempre, e quindi ho messo un dialogo fra Antigone e Ismene che è di una bellezza straordinaria, quando Ismene dice: non annullarmi Antigone, perché lei vuole sacrificarsi insieme alla sorella, dice: questo è il nostro fratello, io non voglio che tu prenda questa iniziativa senza di me, siamo legate. Ed è bellissimo, perché Antigone invece rivendica la sua libertà di essere sola, di essere una donna che decide per sé, non vuole, non deve assolutamente, secondo la sua morale, etica, costringere la sorella o trascinare la sorella in un sacrificio che lei sente come proprio. E questo pone in campo, e poi c'è vicino a loro Cassandra che ha già tutto previsto, che sa già tutto e che sembra quasi il fato. Cassandra, lei, nelle parole di Cassandra si sente l'ineluttabilità del fato, mentre queste due donne invece non accettano il fato, non accettano e discutono, proprio perché vogliono in qualche modo affrontare in un modo vitale quello che si pone, secondo Cassandra, invece come una cosa fatale. E questo mi piace moltissimo, io lo sento molto vicino a Montale, quindi questa volta io l'avrei messo vicini per similianza e non per contraddizione, perché si assomigliano. Montale amava moltissimo la moglie e ha vissuto la perdita della moglie con una lucidità, allo stesso tempo una dolorosità che pervade queste sue poesie, e c'è quella in cui dice appunto: ho sceso un milione di scale dandoti il braccio, sapendo benissimo che però fra i nostri occhi le pupille tue, seppur affuscate, erano quelle che ci vedevano di più, che vedevano chiaro. Insomma, ha una serie di canti talmente belli, talmente commoventi e liberi, anche lui è libero come Antigone. Lui da un lato capisce quello che è nella vita a cui siamo, lui dice a un certo punto nel Dissipa tu se lo vuoi, questa bellissima poesia sua, dissipa tu se lo vuoi questa mia vita che si lagna come un frego, adesso non mi ricordo esattamente, sulla lavagna. E alla fine dice: bruciare, questo è il mio destino. Insomma, lui si arrende al fato, lui è fatale, lui è, in qualche modo capisce, vede il nero anche se preferisce il bianco. La prima volta a cura di Cristina Carpinelli. Giovanna Marini è una musicista, una chitarrista, una donna che a un certo punto della sua vita ha deciso di mettere in pratica tutto ciò che aveva studiato con la musica, creando così un coro di persone che non avevano mai studiato musica, un coro che negli anni è diventato una grande famiglia, un posto nel quale sperimentare. Un posto e un osservatorio dal quale scoprire debolezze e punti di forza del nostro paese. Una testimonianza del nostro viaggiare in giro per l'Italia registrando canti che a noi piacciono moltissimo, perché sono canti della tradizione orale, canti musicalmente elegantissimi che si potrebbero anche perdere purtroppo, ma che per fortuna c'è uno stuolo di ragazzi che si sono invece appassionati, li cercano, non solo, ma nei paesi stessi abbiamo trovato, ogni volta che ci andiamo troviamo che il gruppo di coro è cresciuto, sono nati magari due, tre confraternite che cantano, Adesso torniamo, proprio adesso siamo tornati dalla Sicilia, abbiamo trovato una situazione rosea con molti, molti ragazzi giovani che hanno preso a cantare questi canti che prima invece negli anni 60 si erano quasi persi. Poi sono stati recuperati dai grandi Carpitella, Lady, il gruppo di Ernesto De Martino, che è il nostro, quello a cui io appartengo, del Nuovo Canzoniere, e quindi sono stati salvati questi canti. E intanto nei paesi stessi era ritornata la voglia di cantarli. Noi veniamo da Delia, che è un paesino nel centro della Sicilia, in montagna, dove hanno cantato Delia, sia a Delia che a Mussomeli, che a Montedoro e che a Milena, hanno rifatto sempre, come sempre, la Passione. Loro fanno come sempre la Passione nella settimana di Pasqua, però adesso di cambiato c'è che ci va molta più gente a sentirli, anche molti stranieri. Lei ha conosciuto veramente moltissimi, e infatti non è un caso secondo me che abbia messo in musica Montale, ha proprio fatto parte di tutta una generazione di intellettuali. Lei stessa è un intellettuale che ha attraversato proprio diversi momenti anche del nostro paese. Secondo lei forse non è un caso che si stia tornando ad aver bisogno, no, di attaccarsi alla tradizione, quindi al canto popolare, il fatto che ci siano questi ragazzi, questi giovani che lei incontra che hanno voglia? Forse è legato proprio a un bisogno contingente di questo periodo? Sì, io direi sì, che c'è bisogno di cose che siano giuste, che siano etiche, che siano attaccate alla realtà nostra, che siano la nostra terra, che siano cose. Abbiamo tutti perso un po', secondo me, i ragazzi in tutto questo mondo rapidissimo, vorticoso, che ci gira attorno, che sono vortici che non garantiscono la solidità per niente, non garantiscono l'autenticità, sono vortici, il computer, Facebook, le amicizie di Facebook, tutto questo è tutto rapidissimo e transeunte, passa, perisce in un attimo. E allora uno a un certo punto dice: un momento, io voglio una quercia, voglio un olivo, voglio una cosa che stia ferma lì dove sta da anni, da millenni, voglio ritornare a vedere. Infatti il viaggio che abbiamo fatto quest'anno, a parte esserci noi vecchi, e dico noi perché nel mio corso ho degli allievi di 70 anni che erano venuti a Testaccio quando ho cominciato io a insegnare, avevano più o meno l'età mia. E ci sono quindi allievi adulti molto, ma allievi giovani, mentre prima avevamo difficoltà a trovare dei ragazzi giovani che si appassionassero a questo tipo di musica, e adesso invece no, questa volta ne abbiamo più di una quindicina. Avevamo una ragazzina di 16 anni, appassionatissima pure lei. Bellissimo. Quindi sta cambiando la cosa, ma certo ci trema troppo la terra sotto i piedi, non si può vivere così, già ci trema fisicamente. Ma farcela tremare pure noi non è possibile. Uno vede che è tutto troppo rapido. Lei ha citato diverse volte la scuola popolare di Testaccio. È sicuramente una delle sue creature più importanti, no? Se si potesse dire, cioè forse è un passaggio centrale della sua vita, quello di aver dato forma. Sì. Lei se lo ricorda il primo coro che andò in scena, cioè la prima volta che andò in scena? Come no, certo, a Testaccio. sì, avevo fatto un coro, come al solito, nel mio primo corso di Testaccio, che era nel 76, avevo una cosa tipo 20 donne e 4 uomini, proporzione che adesso per fortuna sta molto migliorando, ma gli uomini non venivano a cantare, non cantavano, gli uomini non cantano, sono le donne che cantano, perché gli uomini hanno sempre bisogno di porre fra sé e la gente, la società, una cosa palpabile, un portafoglio, una cosa che si tocca e si vede, e per sentirsi sicuri, mentre le donne non hanno questo, aprono la bocca e si buttano, perché sono sempre state abituate a essere figure di secondo piano e quindi non dovevano salvare una faccia, diciamo, da mostrare in pubblico, capisce? Quindi le donne, questa è una psicologia da quattro soldi che faccio io da non esperta, ma insomma così da persona che vive a contatto dei ragazzi si rende conto, si buttano molto più tranquillamente, non hanno paura. I ragazzi ci pensano due volte prima di imparare a cantare, gli pare una cosa che insomma è una cosa che si sentono insicuri e non lo fanno volentieri. Pensavo che fosse dell'Italia, ma non le dico in Francia, io avevo 60 donne e 5 uomini. Questa è la proporzione. Tutti appassionatissimi, quei 5 che c'erano, che noi tenevamo in palmo di mano, e noi 60 donne appassionatissime anche noi. Era uguale la cosa, solo che la proporzione era molto diversa. E quindi il primo coro fu così, tanto che mi ritrovai poi a fare uno spettacolo con 11 donne, che era il saggio finale, perché gli uomini non potevano, non mi ricordo, e quindi eravamo in 11. E cantammo parecchi pezzi che avevo scritto io, e quello fu il nostro primo saggio, il primo gruppo, e poi chiamai questo primo esperimento, Correvano coi carri, che era il titolo di uno dei miei canti, che raccontava di una bellissima comizio di Pasolini, che si trovò coinvolto in un comizio e parlò lui al posto dell'oratore. Le volevo chiedere, lei ha parlato di Pasolini, io so che lei e Pasolini eravate amici, vi conoscevate? No, il termine amici non no. È esatto, ci conoscevamo, lui conosceva le cose che scrivevo abbastanza, aveva detto perché non metti in musica qualcuno dei miei canti della Meglio Gioventù. E mi indicava anche quali. E io con piacere gli dissi di sì, lui morì poco dopo e con Laura Betti continuai quel lavoro. Non eravamo amici, se magari fossimo stati amici, no, ci conoscevamo un pochetto, ci siamo visti a Venezia quando ci fu quella contestazione al Festival di Venezia, sono stati una settimana, lì ci vedevamo tutti i giorni, quindi io lo ascoltavo molto, cercavo di stare il più possibile vicina perché c'erano lui e Zavattini, e quasi sempre vicini insieme, e io mi avvicinavo sempre perché imparavo talmente tante cose da loro che... La puntata termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Scriveteci all'indirizzo la prima volta at radio24.it. Riascoltateci in podcast. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. A domenica prossima, sempre alle 13 circa. La prima volta.